Caro genio, forse quello che sto per chiederti ti sembrerà stupido. Ti sembrerà il solito desiderio banale e inutile di una ragazzina di 14 anni, che cerca i suoi idoli in persone che non ci sono più o che fanno cose sbagliate. Però è uguale. Beh, io vorrei tanto incontrare Jim Morrison. Se la magia esiste, magari nell'aldilà. Lui è veramente importante per me. Io non credo in Dio, non ho fede. Però da quando ho iniziato ad ascoltare i Doors e a conoscere Jim Morrison, ho iniziato a realizzare che lui sia il mio Dio. È stupido, lo so, ma mi sono creata una religione tutta mia. Le persone, secondo me, hanno bisogno di credere in qualcosa che dia loro la forza di andare avanti. E io credo in lui. Tutte le sere, prima di andare a letto, leggo una sua poesia nel libro Jim Morrison, Poesie Apocrife. Tutte le sere una diversa, come se fosse la mia Bibbia. Quando vedo le sue foto, ascolto le sue canzoni e guardo i suoi video musicali, mi viene da piangere. Io da grande vorrei assomigliare un po' a lui. Non voglio commettere i suoi stessi sbagli, però vorrei assomigliargli. Questo sarebbe un altro mio desiderio. Beh, spero che tu possa fare qualcosa per me. Ciao, Carola.